I wouldn't kill to win a war. I don't get what they do it for. It's all so terribly vague. I see the pictures from a thousand years of battle, and I think it's such a bore. I walk New Orleans with a knife, like Nike hidden out of sight. But I'd be useless if they jumped. I'm really not the killing type. Of your mum before the war when she was young. She's got an etching to her right. I think it's funny that she's looking to the left, and it's a sign I wouldn't kill to get you back. It now I'm saying it so. Even if you never hear the song, somebody else will know. I'm saying it now. I'm saying it so. Even if you never hear the song, somebody else will know. No, no, no, no. I just can't explain how good it feels. I just can't explain. Mercy killing, I couldn't sleep for a week. I kept feeling it's breaking bones, I heard. But if you see a star at night, and the conditions are just right, and you are standing on a cliff, and you can close your eyes and make a wish and take a step and change some. Kill to make you feel. I kill to move your face an inch. I see you staring into space. I wanna stick my fist into your mouth and twist you up and cut your soul. I kill to make you feel. Saying it now. The Killing Type, Amanda Palmer, ad aprire la nostra Sister is Blooming, puntata numero 39, 0649 1750, se volete interagire con noi. Stasera la radio è piena di bellissime donne che mi fanno una bellissima compagnia, e c'è un ospite assolutamente speciale e anche improvvisata, nel senso che non sapevamo che sarebbe stata qui con noi, quindi è una sorpresa ancora più gradita, che è Rosa Sanchez. Ciao Rosa. Ciao, che tal? Ciao. Allora, Sisterhood stasera sarà un po' diversa dal solito, quindi anziché raccontarvi le nuove uscite del panorama musicale indipendente di donne, vi racconterò un po', ci racconterà un po' la sua storia Rosa Sanchez, che sarà in concerto questa settimana qui a Roma, e quindi insomma ne abbiamo approfittato per farci anche ascoltare qualcosa qui dal vivo, e soprattutto appunto anche per ascoltare un po' di bellissima musica tradizionale. Rosa viene dal Costa Rica e vive a metà tra il Messico e Barcellona, quindi insomma un po' unisce in sé tutta la bellezza del mondo e della musica tradizionale. Quindi Rosa, allora, questo concerto, sei contenta di essere qui a Roma? C'eri già stata? Pues claro, claro que sí. Es la primera vez que visito Roma, que visito a mis amigas de Roma que conocí en México. Entonces es siempre bonito, interesante, vital, alegre, pues conocer otras tierras, otras culturas, otras historias. Va bene, allora, abbiamo anche una traduttrice, perché io, come sapete, sono anglofona e non parlo una parola di spagnolo, però per fortuna Rosa mi capisce quando le faccio le domande, sì. E questo ci aiuta tantissimo. Insomma, ha detto che è molto contenta di essere qui, è la prima volta che viene, sì, a Roma, e insomma le piace questo entusiasmo, questa insomma questa allegria che ha trovato, insomma, anche da parte nostra, nel senso che comunque è stato bellissimo poterti ospitare, insomma, averti qui, avere questa idea così fulminea. Io avevo chiaramente un programma pensato per questa sera, però poi mi è arrivata questa bellissima telefonata e ho pensato: ma sì, in pieno spirito Sisterhood ospitiamo Rosa Sanchez. Allora, ti va di farci ascoltare subito qualcosa? Sì, sì, sì, claro. Ok. Bueno, va a ser una canción tradicional de Veracruz, México. Es una canción tradicional del estado de Veracruz, del México. Pues es una canción muy conocida en todo el mundo, en muchas versiones. Molto conosciuta en todo el mundo, en todas las versiones. Pero a través, pues, de también del tiempo y de la voracidad, pues, de las versiones comerciales, perdió su origen. Ah, y però attraverso il tempo e attraverso la velocità di tutte quante le versioni commerciali ha perso la sua reale origine. Perché hasta en la música de los móviles sale. Perché adesso c'è anche addirittura nella musica, nelle suonerie dei telefonini. Sì, telefonini. Y pero nació en Veracruz, México. Ma è nata a Veracruz, in Messico. Y aquí me va a acompañar en el instrumento también tradicional de la quijada de burro. E l'accompagnerà nello strumento della quijada di burro, che è uno strumento tipico veracruzano, che è la, sì, mandibola di un asino, sì. Marilena, e lo strumento che si utilizza per suonare la musica, che è il son jarocho, ¿verdad? Sì. Che si chiama son jarocho, è la jarana, che è una chitarra tipica dello stato di Veracruz. Vale. Gracias. Arriba y de tu balcón se divisa la luna. se te puso la cara, se te puso la cara y color de rosa. Y arriba y arriba, arribita y arriba, y chilín chilán, que repiquen campana, que repiquen campana, de malibran, de malibran, de malibran. Acabe la bamba, que se acabe la bamba y venga otro son. Allá arriba, allá arriba, arribita y arriba, y arriba, y que como la palomita, como la palomita, regresaré, regresaré, regresaré. Questa era la bamba, anch'io l'ho riconosciuta. Conoscias la bamba? Sì, l'abbiamo riconosciuta. Sì, è vero, questo era un pezzo un po' commercializzato, però che ha invece una tradizione più lunga. Sì. Rosa, come hai cominciato con la musica? Mi stavi raccontando prima, che è una bellissima storia. Sì, pues he comenzado con la influencia de mis padres, de mis tíos, de las fiestas que hacían en las casas de mis abuelas. Ya ha iniciado con sus genitori, con sus zine, la fiesta que hacían a casa de sus nonni, de las nonne. Eso, pues fiestas familiares donde había muchas guitarras, donde todos cantaban. C'eran molte chitarre, tutti cantavano. Y así empezamos. Y luego, bueno, si quieren la historia más larga. La historia más larga está bien. Bueno, vamos a hacer más pequeña, ¿no? Pues yo me fui a vivir allá a una cordillera de Talamanca, en Costa Rica. Dejé todo lo que había en la ciudad y me fui allí. ¿A cuántos años? A los 18 años. A 18 años abandonó la su ciudad natal y se andó a vivir en la cordillera de Costa Rica. Claro, y ahí viví bajo un árbol. Un árbol era mi casa. Y un árbol era la su casa. Y pues eso para... La primera cosa que pensaba en el día era, la única preocupación además, porque no existía otras preocupaciones, era ¿qué voy a comer hoy? La prima preoccupazione che aveva nel giorno, e tra l'altro era anche l'unica che aveva durante il giorno, era ¿qué cosa mangerò oggi? Pero la selva pues te proporciona plátanos, te proporciona guayaba, yuca, todas las frutas. Ma la foresta ti regala banane, yuca, guayaba, que es un frutto tipico di lì. Y bueno, un día que regresé a la ciudad y quería pues pasear por ahí, pensé que para tener un poco de dinero podía cantar en un mercado público de allí popular. E un giorno, passeggiando per la città, pensando a come avere un po' di soldi spicci in mano, ha pensato, vabbè, posso provare a cantare nel mercato pubblico che c'è lì. E funzionava. E funzionava. Y así empecé. Così ha cominciato. E quindi come una vera cantante blues, cioè hai cominciato per la birra, per berti una birra, è molto nello spirito blues, no, questa cosa? Es que por el calor que hace aquí. No, dijo que empezaste como todas las cantantes blues para tomarte una birra, o sea que tienes que pagarla con el dinero. Ah, claro, no, claro, ya entendí que empecé aquí tomándome una birra. No. E poi come hai continuato? Nel senso, hai cominciato per berti una birra, insomma, e in qualche modo hai visto che funzionava, sì, questo tuo rapporto, no? con il pubblico, perché loro si fermavano e ti offrivano qualcosa per poi comprare da mangiare o da bere. E poi come è venuta fuori l'idea di continuare a suonare, la tua esperienza con il tuo strumento e la tua voce? El querer aprender a tocar y seguir tocando y aprender otras músicas y viajar. Claro, porque siempre mi inquietud, y creo que transmitida por mis abuelas. Cioè, perché sempre la mia inquietudine, forse trasmessa dalle mie nonne. Fueron los caminos. Sempre è stata quella di andare nei sentieri, cioè di camminare. Conocer otros países lejos, desconocidos. Di conoscere posti nuovi che non conoscevo prima. Y entonces aprendí que la música era un medio de transporte muy bueno, muy cercano con la gente, con los pueblos. E quindi Ha visto che la musica era un buon mezzo di trasporto, perché era un mezzo vicino e che riusciva ad arrivare facilmente alle persone. E algo también para dar, para compartir y para aprender. Era una forma di dare qualcosa, quindi di condividere qualcosa, ma anche di apprenderla dagli altri. Pues sí, por esto me dedico a la música de Latinoamérica. Si dedica alla musica della Latinoamérica. Come prossimo pezzo avevo pensato di farti riposare un minuto e far ascoltare alle nostre ascoltatrici Violetta Parra, che tu conosci sicuramente bene. Sì. Quindi presentala tu, Violetta Parra, che sicuramente la conosci meglio di me. E il pezzo che ho scelto è, si intitola Io canto la differenza. Io canto la differenza. Ok. Pues la prossima canzone è della poetessa, cantora, camminante, tejedora, maestra, mujer, guitarrera. ¿Tú sabes algo para decir de Violetta Parra? Esto. Ok, porque era una cantante, una suonatrice di chitarra, una poetisa, tejedora. Ricamava anche, era una ricamatrice. Era maestra. Era maestra. Madre. Mujer. Donna. Luchadora social también. Era una donna che lottava socialmente. Y del pueblo, pues, Violetta Parra. Violetta. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta. Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su cadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda fiesta nacional. No tiene fuego la luz, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar. Questa è la Violetta Parra, Io canto la differenza. Violetta, appunto, come vi diceva anche Rosa Sanchez, qui ospite da noi questa sera, è stata appunto una cantante, una poetessa, una pittrice e una ricamatrice, come mi suggeriva, cilena, e a cui si deve un'importantissima opera di recupero, di diffusione della musica tradizionale e della tradizione popolare in generale del Cile. Parlavamo proprio di questo prima con Rosa, della musica tradizionale e della tradizione popolare, che anche io capisco bene tutta questa faccenda, perché anche nel sud Italia, da cui provengo personalmente, insomma, c'è stata un'opera di recupero di quello che un po' erano le nostre origini, i nostri canti e i significati dei nostri canti, quindi lo spirito con i quali si facevano questi canti, che è stata molto faticosa in qualche modo. Perché, un po' come ci raccontava lei, la bamba aveva un'altra origine, insomma, che poi in qualche modo è stata snaturata usandola così un po' a caso, in maniera superficiale, senza raccontare nulla di quella storia. E quindi volevo chiedere a Rosa che ne pensi di questa cosa, nel senso, anche tu hai fatto un po' un lavoro di ricerca della musica tradizionale, no? Un po' sia della Costa Rica che del Messico. Tu también esiste una ricerca de músicas tradicionales de Latinoamérica. Sí, o sí. Solo de Costa Rica y México. De todos los países que he viajado. Di tutti quanti i paesi in cui lei ha viaggiato, ha fatto un lavoro di recupero di musiche tradizionali? Por ejemplo, bueno, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú. Ad esempio, Panama, Colombia, Ecuador, Perú. Brasil. In Brasile. Bolivia. Bolivia. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Venezuela. E scommetto che in ogni paese dove sei stata c'era sempre qualcuno pronto a raccontarti una storia attraverso la musica, è vero questo? Bueno, ella dice que adivina que en cualquier país has estado, siempre habrás encontrado a alguien listo para contarte una historia sobre una música, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, y es el mayor tesoro que he encontrado en cada lugar. Ed è il più grande tesoro che ha trovato in tutti quanti i posti. Sì. Qual è la storia più, se ce l'hai, adesso se ti viene in mente, il posto dove sei stata, dove hai incontrato qualcuno o qualcuna che ti ha raccontato una storia attraverso la musica, che in qualche modo ti ha illuminata, ti ha aperto il cuore e ti ha detto questa la voglio imparare. ¿Cuál es la canción que más, o el género musical? ¿Cuál es el lugar donde has estado, donde has encontrado una canción y alguien que te explicara esa canción y que te dio la gana de aprenderla y que te cambió algo? Pues, bueno, mucho en Perú, por ejemplo, con los músicos de la zona de los Andes. Dice molto in Perù con i musicisti della zona delle Ande. E también en Veracruz, el son jarocho. E anche il son jarocho, che proviene appunto dallo stato di Veracruz in Messico. Perché, bueno, hay una historia muy bonita, que esta música del son jarocho es una música muy colectiva. Perché la storia del son jarocho è una storia molto bella, è una musica di suono collettivo. De los pueblos. Delle cittadine, dei paesini. Entonces la tocan de todas las familias, el abuelo, la abuela, la tutte madre. Tutte le famiglie, tutte le persone, tutti i componenti della famiglia hanno una jarana y la suonano, dai piccolini fino ai nonni. Y las fiestas populares hacen el fandango. que es la reunión de todos los pueblos en las plazas para tocar todos. E la festa popolare si chiama Fandango, in cui tutti quanti i paesini vicini arrivano nella piazza centrale e tutti insieme iniziano a suonare quella che avete sentito prima, che era la bamba, che è composta di tantissimi, tantissimi versi. E aveva un fandango che si organizzava lì e veniva la gente de pueblos de lejos. Y entonces el fandango era el domingo, pero el viernes llegó un viejito. Allora, dice, il fandango normalmente era la domenica, ma un venerdì è arrivato un signore. Un signore grande, grande, un vecchietto, viejo. Un vecchietto. Con su jarana, con in una bolsa di plastico. In una busta di plastica. Y no sabemos de qué pueblo venía, pero venía caminando muchos días. E non sapevamo da che posto era venuto, però stava camminando già da tanti giorni. Y entonces, como vino el viernes, dijimos, bueno, vamos a que usted se queda a dormir aquí en nuestra casa. E dato che l'hanno incontrato che era venerdì, gli hanno detto bene, ok, non fa niente, intanto rimani a dormire e stai a casa nostra. Pero él decía que no, que le daba mucha mucha pena, mucha vergüenza. Però lui si vergognava molto di andare ospite. Y dice, no, aquí abajo de este arbolito yo voy a quedar. E lui dice, no, no, rimango qui, sotto questo albero, rimango qui. Hasta el domingo. Hasta el domingo, pero lo convencimos para que estuviera en un petate, como duermen allí en esas regiones, en el piso, es un tejido de vegetal. ¿No? Dice, alla fine l'hanno convinto a dormire su un petate, que es una especie de tappeto tessuto con foglie, quindi vegetale, sí. Dove si dorme normalmente in Messico. Y con su vela toda la noche encendida. Con una candela accesa tutta quanta la notte. Y eso, pero él cuando no había salido el sol, todavía era oscuro, él se iba. Ma quando ancora non era uscito fuori il sole, quando ancora era scuro, insomma, non aveva ancora albeggiato, lui se ne andava. Perché dava pena. Perché si vergognava. È una bellissima storia. Ora cantaci qualcosa. Cantamos, ¿verdad? Sì. Bueno, ese è improvvisato aquí con mi... Che ci canti, Rosa? Esta es una canción del compositor popular Ali Primera de Venezuela para el pueblo de El Salvador en Centroamérica. Es una canción del compositor Ali Primera, que es venezolano y la composta para el pueblo de El Salvador. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que vuelva la alegría y a borrar el sufrimiento, en que vuelva la alegría y a borrar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Thank you. amor por la humanidad. Hermana salvadoreña, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo de masacres del sur. Sombrero azul. E per la prima volta in studio facciamo anche i cori, cosa che non ci capita molto spesso. State ascoltando Sissy Who Is Blooming, puntata 39. Tra l'altro questa sera, per fortuna, c'è qui con noi la Musique, che è rediviva, mezza morta, che ci aiuta con i suoni, altrimenti non ce l'avremmo mai fatta assolutamente. E c'è Rosa Sanchez qui con noi insieme a Milou Mayor, che appunto l'accompagna con questo strumento straordinario, che è appunto è una povera mascella di bue, si può dire, perché insomma, di asino, che però suona molto bene. Questa quijada de burro, pues realmente no es de burro, tiene una historia. Oh, es de yegua. Ok, allora, come al solito, quando si parla con Rosa non si può dire una cosa è così, no, cioè comincia una storia, ecco, che è una cosa bella, e quindi sta dicendo che non è in realtà una mascella di asino, ma è... In questo caso è di cavalla. Di cavalla? Di cavalla. Esa es una... Iba caminando por los alrededores de San Cristóbal de Chiapas. Estaba México. Caminando en torno a San Cristóbal en Chiapas, México. Y entonces vi un accidente de un camión con una yegua. Y vi de un... frente a un camión a... Atropelló. Sí, ha messo sotto una cavalla. Es esa cavalla. Ed è questa. Ok, la mascella è questa qua. Quindi non è stata uccisa nessuna cavalla per questo strumento, ma è stata recuperata dopo un terribile incidente. Quindi insomma è un... Ora vive, todavía vive la cavalla nella musica. Vive la cavalla nella musica, quindi è una donatrice di organi, si potrebbe dire, sostanzialmente. Senza saperlo, non credo che ci sia un registro per le cavalle, però insomma vi assicuro che è uno strumento molto molto interessante anche da guardare, fa una certa paura, no? Milou, dici qualcosa su questo strumento che hai conosciuto da poco o ce l'avevi te... Ti sei approcciata? Da due giorni, quindi insomma. Però è inquietante, ma allo stesso tempo è affascinante. Attraente. Sì, ecco, grazie Milou di questa tua. Cioè, di averci raccontato, perché è veramente una roba, poi ve la faremo vedere a un certo punto. Anzi, la potrete vedere, penso, no? Giovedì alle 21:30, io ve lo ricorderò anche alla fine della trasmissione. Alle 21, alla Casa Internazionale delle Donne, via Francesco Di Sales, chi si ricorda il numero, nessuno, ma la troverete, insomma, voglio dire, la Casa Internazionale delle Donne la troverete, basta chiedere, insomma, Rosa si esibirà lì, quindi insomma assolutamente dovete andare. Il prossimo pezzo che voglio farvi ascoltare, così facciamo riposare un po' Rosa, anche perché qui ci sono circa 750.000 gradi, è un pezzo in qualche modo che ti assomiglia, cioè Vela Varga ha una è costa della costarricense della Costa Rica, e però poi alla fine è diventata la cantante messicana in qualche modo, no? Sí. Vero? Pues sí, Chavela Vargas, mucha gente no sabe que nació en Costa Rica, en la provincia de Heredia. È nata in Costa Rica, nella provincia di Heredia. Pero ella misma contaba que tenía una historia muy trágica allí familiar, ¿no? Pero lei stessa raccontava di avere una storia molto tragica a livello familiare. Y tenía un gran desamor con Costa Rica. Ed aveva un grandissimo amore per il Costa Rica. Primero porque decía que en su preferencia sexual en esa época en Costa Rica era muy discriminada. E prima di tutto perché diceva perché per le sue preferenze sessuali in quel periodo in Costa Rica era molto discriminata. Claro, y luego en la música nadie le hacía caso. E anche perché nessuno le, diciamo, la valorizzava a livello musicale. Claro, entonces se aventuró a México. E quindi si avventurò verso il Messico. Y ella sí decía que su corazón era mitad mexicano y mitad costarricense. E lei diceva che il suo cuore era metà messicano e metà costarricense. Y además fue la última cantante de la época de oro, de la llamada época de oro de la música mexicana. E fu l'ultima cantante, l'ultima sobreviviente, digamos. L'ultima cantante dell'epoca d'oro della musica messicana. Sì. Eh sì, perché Chavela è morta il 5 agosto dell'anno scorso, insomma, fra un poco ci sarà un anno dalla sua morte, quindi insomma in qualche modo possiamo anche celebrarla così. Sì, è stata una cantante, anche un personaggio eclettico, non soltanto come cantante, insomma come performer, ma anche come personaggio. Lei andava negli anni 60 in giro in Messico vestita da uomo, non ha mai nascosto le sue preferenze sessuali, come diceva Rosa, nel senso che le piacevano le donne chiaramente. Poi ha deciso di fare il suo coming out vero e proprio a 81 anni, quindi insomma anche una grandissima meraviglia e una grandissima bellezza per questa. Non è un caso che un po' il suo personaggio poi lei fisicamente sia stata poi presente nel film dedicato a Frida Kahlo cantando il pezzo che vi facciamo ascoltare, che è uno dei suoi pezzi, insomma uno dei suoi pezzi più famosi e più belli, La Llorona, Chavela Vargas. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. De mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece están llorando, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que ve llorona porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes, llorona porque la luna le engaña. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Questa era Chavela Vargas con la Llorona, insomma, che è un pezzo quasi rosa le lacrime agli occhi mentre l'ascoltava, perché è sempre un pezzo veramente strappalacrime, bellissimo. E, Rosa, allora, intanto ricordiamo giovedì, questo giovedì alle 21 alla Casa Internazionale, Rosa Sanchez sarà in concerto, quindi tutte voi che avete ascoltato questa sua, diciamo, esibizione qui live, un po' improvvisata però bellissima, avete la possibilità appunto di ascoltare il suo concerto, quindi insomma di godervela appieno questo giovedì. Rosa mi guarda stralunata, giustamente non ha capito quello che ho detto, non ti preoccupare, tutto ok, non era una domanda. Benissimo, intanto ok, allora Rosa, allora mi hai raccontato che questa, la musica ti ha portato in giro per il mondo, adesso mi hai raccontato anche che 6 mesi vivi in Messico e 6 mesi in Barcellona, mi hai anche raccontato che non è stato facile arrivare a Barcellona, nel senso che alcuni, mi raccontavi prima che alcuni tuoi amici ti avevano invitato a assolutamente dovevi venire in Europa dove non eri mai stata. E quindi no, vieni a Barcellona, ti troverai benissimo, sarà fantastico, assolutamente prendi un aereo, vieni, ti aiutiamo noi, ci avrai una casa, bla bla bla bla, come si dice sempre, no? E poi cosa è successo, Rosa, quando sei arrivata? Qual è stata la tua esperienza con l'Europa? Ricordiamolo, eh? Ah. Bueno, all'inizio fu molto traumatico, sì. L'inizio è stato molto traumatico. Porque estuve allí en sus calabozos del aeropuerto del Prat. Porque he estado rinchiusa dentro el aeropuerto del Prat a Barcelona. 3 días. 3 giorni. Las primeras 16 horas o así incomunicada. Le prime 16 ore senza poter comunicare con nessuno. Y todo por no traer una reservación de hotel pagada, aunque la ley no dice que tiene que ser pagada. E tutto questo solo perché non aveva una carta, cioè, diciamo una ricevuta di pagamento di un albergo, perché era richiesto, anche se in realtà la legge era cambiata da poco, quindi non c'era scritto da nessuna parte. Claro. Todo porque cambió la ley de inmigración el 8 sì. de marzo del 2007. Sì, perché l'8 marzo 2007 sono cambiati i trattati Schengen in Europa e quindi c'è bisogno di una riserva in hotel pagata. Non solo riservata per essere sicuri. Y bueno, y pasa en todos los aeropuertos del espacio Schengen. Sí. Y ahora mismo, si queremos, hay personas de todo el mundo que traen esa irregularidad, digamos, administrativa. E anche adesso sicuramente ci sono persone che vengono da altre parti del mondo che con questa piccola irregolarità amministrativa sono rinchiuse sí. negli aeroporti. Entonces ahí mismo te encierran en el calabozo. La ley dice 3 días, pero también había gente que estaba 5 días. La legge dice per 3 giorni, però in realtà ci sono persone che stavano lì anche già da 5. Hasta que, bueno, estás en una cárcel, no sabes si es de día, si es de noche. È una carcere, tra l'altro, chiusa, quindi non sai se è giorno, notte, non ci sono finestre. También con mucho maltrato psicológico ahí adentro. Con maltrattamenti psicologici. Y luego con tu mismo ticket de avión te regresan a tu país. E poi ti rimandano indietro col tuo stesso biglietto aereo. È da precisare che non ti fanno neanche prendere le valigie, perché non hai la possibilità di farlo. Sei da sola per 3 anni. Quindi per 3 giorni appunto la tua esperienza è stata nell'aeroporto di Barcellona, sì. Anzi non nell'aeroporto ma nella cella dell'aeroporto di Barcellona. Tu? Sì, nella cella dell'aeroporto di Barcellona, sì. Ok, però invece poi sei ritornata per fortuna, conoscendo, mi dicevi meglio, i tuoi diritti, e quindi insomma sei tornata più preparata per affrontare delle situazioni simili a quelle che ti è successa la prima volta. E poi com'è Barcellona? Come ti è apparsa l'Europa attraverso Barcellona, insomma, nel tuo primo contatto? Come mi sento in Barcellona? No, come ti pareció l'Europa in Barcellona? Bueno, desde Barcellona, ¿cómo bueno, Barcellona en particular, pues ahí vivo, me gusta, hay mar, digamos. Cioè, Barcellona en particular me piace, ci vivo, c'è il mare. Pero sí, bueno, es muy diferente de otras regiones, por ejemplo, de España. Ma è anche molto differente da altre regioni spagnole. Y Barcellona se está convirtiendo ahora en un centro de turismo. E ora si sta trasformando de alto nivel económico. In un centro di turismo di alto livello economico. Y está siguiendo pues un modelo de economía mundial, pues. E sta seguendo un modello economico mondiale. yo creo que mata la esencia de los pueblos. Que pero uccide, secondo me, la esencia de un popolo. Mata su identidad. Uccide l'identità. Entonces todo se llena de cadenas de lujo, de cosas, y no sé, Barcelona es un poco la moda y la onda fashion. Luego tiene a los afueras, pues los pueblos, donde la gente guarda más pues su sí, esencia, ¿no? Si riempie di catene di multinazionali, di cose fashion, e quindi Barcellona si è convertita in questo, mentre fuori, se vai nei paesini vicini, le persone contano su cose differenti. Pero bueno, hay gente de todo el mundo y también hay, una, hay barrios todavía muy populares como el barrio El Raval. Donde y es. Hay quartieri muy populares como por ejemplo quello del Raval. Todavía. Que ancora resistono. E invece come la musica tradizionale può aiutare, no? Che anche quello che fai tu in giro per il mondo, sì, viaggiando per un mese, due mesi, tre anni a seconda di dove devi arrivare, come mi raccontavi, come la musica tradizionale può invece evitare questo, come può fermare questo processo di commercializzazione che arriva praticamente ovunque, come può farlo secondo te? La musica tradizionale, tutto questo processo, come può aiutare? Puede apoyar, no sé, como una herramienta donde de comunicación. Puede ser un instrumento de comunicación. La música, ¿no? Decía que la música es el reflejo de nosotros mismos. La música es reflejo de noi stessi. Es la proyección de nuestros sueños. Es la proyección de nuestros sueños. De nuestro dolor. Del nuestro dolor. De nuestra historia. De la nuestra historia. De nuestras alegrías también. Y anche de, ¿no?, nuestra alegría. Entonces, si nos vamos comunicando y si no está monetarizado. Si andiamo, quindi se comunichiamo y tutto questo non viene monetizzato. Porque ahora todo cuesta. Porque adesso costa tutto quanto. Hasta vernos. Creo que sí es una herramienta para acercarnos y para vernos, ¿no? Es un modo, es un instrumento para avvicinarci, para condividere qualcosa y para sí, per stare insieme, per compartir. Sì, per condividere in pieno spirito sisterhood, che è appunto anche la cosa che abbiamo fatto questa sera, condividere nel senso proprio di tu ci stai regalando la tua musica e noi la stiamo cercando di far sentire a più donne possibili, quindi insomma che ci fai ascoltare ora, Rosa? Ti va? Tu musica e intentamos hacerla conocer a más mujeres posibles. Ahora qué quieres tocar? ¿Qué quieres tocar? Vamos a ver pues algo que ya ensayamos. Qualcosa che hanno già provato. L'unica cosa che hanno già provato. Venga. Ay, ustedes también, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Que ustedes me regalan su corazón también. Gracias, anche a voi perché le regalate il cuore per questo invito. ¿Cómo se llama la canción? Esta canción se llama La Iguana. La canción se llama La Iguana. La Iguana, Rosa Sánchez. Thank you. alazán. Yo agarré una burla con la yacura Matitlán. Iguana mía, ¿para dónde van? Voy para el puerto de Soledad. ¿Será mentira, será verdad lo que andan diciendo? Pueblo no hay novedad, y si lo hubiera pudo ser ahí, que iguana tan que una la jea, que se sube pa' y luego se apea. Se mira el espejo para que lo vea, haga usted lo mismo para que se vea. Cierre los ojitos como que yo que bailando está igual, que se contonea, sube al arbolito, luego se apea, mueve la espaldita, como que patea, a la quea, a la quea acá. ¡Uno! ¿Qué será? Rosa Sanchez qui live a Sister is Blooming, e adesso ti voglio regalare io una cosa, Rosa, una cantante originaria delle mie parti di Procida, una interprete della musica tradizionale napoletana che insomma è conosciuta generalmente per altre cose che ha fatto, invece era una splendida voce e anche una cantante politica. In particolare questo pezzo che ho scelto è una sorta di storia della città di Napoli e di tutte le sue dominazioni e di tutte le sue traversie. Concetta Barra, Nascetta in mezzo mare. Nascetta in mezzo mare, Nascarola e Michel e Mago, ma storia è sta città, io te la voglio raccontare senza fuggire ma verità. Assai bella e Michel e Mago, solo bellezza poteva andare, funicoli e funicolà, ma qua bellezza si può campare, hai voglia sempre da ciuscià. Con mia femmina pazzente, senza rote e senza niente, qua bellezza solamente, come stiere malamente, a così Napolonà, o pentono stai sempre là, a risorgo stai urnato, capo steggi a serenata. I turchi se la yoga na primera, solo che stia storia vera, chi ci passa a sta città, vera si sa voglio qua. Nova rignante, in ci passai na cavalla, Napoli in ci facetto palla, e ogni volta si cagna o gioco, cangia penna na si loca. Ah, che normanno e l'angioina, s'affitta e sera e mattina, e si bavano guarlina, i roscogli e margellini, a così Napolonà, una canzone a sta città, che mentre la te magnano, essa devo cantare. Viate chi la vince a sta figliola, mezza tucca in spagnola, quando vince un re di Spagna, e se fotte e se magna. Chi è chi non è, sa pazzene vicere, spoglia a me, spoglia a te, poi ci mettono a terreta in un quartiere a via Tuleta. Quanto è bello sto quartiere, caro quando può mestiere, sto mestiere per rotto, e ci pochi farigotti, a così Napolonà, una canzone fa canta, sponda luna a mano chiara, canta sempre ricuttare. Sta figliola è una figlia, e una figlia a renutare, che alla terza mi compare, che sarà per una cantina, proprio in mezzo a sta marina. Sul re Bourbon, se imparai buona canzone, canta il loco che fai buon, canta in cielo a luni spondi, massetta a capo mondo. Ah, viva sempre sta cantina, e chitarra e mandolina, che sturrerà ogni mattina, festa e forca ca farina, e a così Napolonà, festa e forca può magnà, se ti piace sta canzone, viva ancora un re Bourbona. E in bietto teneva una stella diana, che riparte la piglia in mano, poi facetto ruffiano, con scarponi italiani. Bene Savoia e San Vila Scarpatoio, con Viluscio e Bersaglier, con chi stavo tu canto nero, casa stava in Geraier. Ah, da ricetta e Re Vittorio, storie, domando sanatori, voglio fuori sanamente e ci faccio sbentramenti. A così Napoli na, sta luna nuova può cantà, cada donna all'aria, peggio prima caia là. Chi vuole la cimè chi vuole lo struppone è sto padrone, che può fare una nostra vista, da fa nera sta camisa. Va la cimma in terra e te la sinta una guerra, mi sa chi lo serra serra, per la cimma Mussolini, lo struppone marruccina. Ah, poi sarà per un'auto young, mi è da coppa si ci avanza, tu ci canto solo mio, che sta pronta a chi va Dio, e a così Napoli, che tu solo non ci sta, mentre l'aria rova stiella è tornata Francischiella. Poi fa morì la manda a doi, ognuna fatta e fatta sua, ecco tutto chi sta amando si rimasta all'upagante. Oggi chi davanti una canzone sempre canta, che da più campo santa, con ogni femmina è più brutto quando arriva stracco e strutto. Ah, sono sbarcata alla marina di turchi che ho assassina, e a posillo che di russo l'hanno fatto un portuso, sta città per coppallone, chiano chiano si sprofonda, sa Gennaro non risponde, questo sangue non c'è in fondo, e a così Napoli na, a che serve canta giù, vieni Napoli e poi muore, che ci muore solo tu. Nascette mie somare, nascarole e Michele ma, nascette e poi murette, tanto e tanto tempo fa. E questa è la Concetta Barra con questo pezzo, insomma, che fa parte della mia, dei miei ricordi e insomma della mia storia, visto che oggi parliamo anche della storia personale, che è anche una storia collettiva, Nascete e Mezzo Mare. Allora Rosa, ti volevo chiedere, cos'è la prima cosa che fai quando arrivi in Messico, dopo essere stata 6 mesi a Barcellona? Proprio la prima cosa, dice, questa arrivo, scendo all'aeroporto e vado là. Bueno, me da vergogna di dirlo, però. Mi vergogna a dirlo, però. Però è un caldo di pollo con chile tra il pegno. È una zuppa di pollo con il chile tra il pegno, che come è un peperoncino. Un caldo nel mercato. Sì, nel mercato. Perché il viaggio sono 12 ore, molto sì, aeroporto, certo. Stai scansato. E... sono 12 ore di viaggio, tanti aeroporti, sei stanco e quindi... una zuppa di pollo. La prima cosa è una zuppa di pollo. Ok, è bellissimo, è una bellissima cosa, perché è il primo desiderio quando si arriva in un posto, no? Hai sempre un gusto, un odore, un suono che in qualche modo ti riporta a casa, no? Sì, sì, sì. È sì. Il tuo è la zuppa di pollo. Di tutta okay. La vita, eh. Com'è successo che sei finita in Chiapas? Com'è la storia? Com'è andata? Pues estaba viviendo en Guatemala 9 meses. Ero arrivata, vivevo in Guatemala da 9 mesi. Y ya pues quería seguir caminando y pensé que un sitio donde podía e volevo continuare il mio viaggio, aprender mucho y conocer. Pensavo che un posto dove avrei potuto apprendere molto, imparare molto e era conoscere. Chiapas. Era il Chiapas. Per tutta la storia che tiene, per tutta la storia che ha. Pues de lucha, de organización de di los lotta, pueblos, di organizzazione dei popoli. Y fui a conocer allí. E quindi sono andata a conoscere lì. E poi ti sei fermata. E poi ti sei fermata lì. 10 anni. Ok, Rosa, facci un altro pezzo. Che cosa ci fai ascoltare ora? Che vamo? Pues. Può essere una canzone di Violeta Parra. Una canzone di Violeta Parra? Sì. Gusta. La Jardinera. Tiene algún cuento sobre la canzone? La canzone è un cuento. La canzone si chiama La Jardinera, che è la giardiniera. La giardiniera. Sì. Sì, bueno. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. Pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La jardinera. Quel pubblico è aumentato durante il concerto, devo dire. Grazie Rosa, io ti voglio lasciare lo spazio per un altro pezzo, quindi volevo dire un paio di cose, chiudere il sistema di questa sera e ringraziarti tantissimo per la tua presenza e per la tua musica e il tuo spirito che è veramente meraviglioso, e ricordare anche che martedì prossimo ci sarà appunto un'intervista. Rosa ci racconterà anche un'altra delle sue cose, delle sue esperienze, che appunto riguarda il collettivo La Seresa, che appunto si occupa di assistenza alle donne indigene che quindi non parlano spagnolo, incarcerate nel carcere che si chiama Sereso, e quindi da qui il nome del collettivo che si chiama La Seresa, che offre assistenza sia legale sia appunto poi per aiutarle una volta uscite dal carcere, insomma, a sopravvivere. Chiaramente nessuno si occupa di loro né dentro il carcere né fuori, e normalmente queste donne arrivano in carcere perché insomma magari denunciano le condizioni di lavoro o altre cose del genere, o gli abusi che hanno subito, e ovviamente le mandano in carcere con un qualsiasi pretesto, essendo incapaci di difendere i loro diritti, di far valere i loro diritti, e quindi insomma vengono rinchiuse in questo carcere. Quindi è un bellissimo collettivo, si occupa di un lavoro bellissimo, chiaramente tutto autofinanziato, non ci sono fondi statali, non c'è nessuno che si occupa di loro, perché chiaramente sono inesistenti, non hanno nessun valore insomma nel mondo in generale. generale, tranne che appunto per le donne che invece sanno la loro storia e quindi se ne occupano. Quindi martedì prossimo racconteremo anche questa storia e quindi anche questa versione di Rosa in qualche modo. Come ci salutiamo, Rosa? Intanto grazie a Milou Mayor che l'ha accompagnata con questo straordinario strumento, grazie a Sabrina che è stata una straordinaria traduttrice e interprete in questo frangente, visto che io sono totalmente asciutta di spagnolo. Grazie alla musica per il suono e grazie anche al pubblico che è venuto ad applaudire live. Sister vi saluta qui e Rosa, che cosa ci canti per salutarci? Ah, ricordiamo, giovedì 27 alle ore 21, Casa Internazionale delle Donne, prima data in Italia di Rosa Sanchez, quindi assolutamente dovete venire e darle un bacio perché se lo merita assolutamente. Y por ser tan lindas y por luchadoras y por tener este espacio. Y gracias a tutte quante per essere state così carine ad invitarmi e per essere così combattenti per questo spazio. Claro que sí. Pues algo de ahí de México. Sí, una canción de México. Ah. De México. Desdichada.